Niente a ringraziare tutti voi per essere venuti qui, tutti quelli che ci hanno telefonato, ci hanno scritto, ci hanno stretto la mano, ci hanno riempito di teneri abbracci, di affetto e di solidarietà. Ma soprattutto voglio ringraziare Carlo. Una vita breve, ma anche nella sua vita breve ci ha dato tante cose e ce ne ha date ancora in questi giorni. Ha dato a mia moglie, a mia figlia, a me la forza di stare in piedi, la forza di riuscire ancora a parlare, la forza, se così posso dire, di cercare di ragionare. E per questo credo che gli sia dovuto questo ringraziamento. Ci ha regalato in questi giorni delle cose incredibili, l'affetto di voi tutti, la vicinanza di voi tutti. Ci ha fatto rincontrare amici cari che per le vicissitudini della vita avevamo perso di vista e che in questi giorni abbiamo rincontrato. Ci ha dato la forza delle idee, dei pensieri. Ci ha fatto conoscere molto di più di quanto non avessimo potuto fare prima i suoi amici, i giovani, i tanti giovani che sono qui. E anche in questo ci ha insegnato e mi ha insegnato delle cose. Anch'io commetto, come tutti o più di tutti, tanti errori. Anch'io a volte mi sono fatto prendere da giudizi frettolosi. Ho imparato, stringendo l'affetto dei suoi amici, dei tanti amici così diversi, come è stato detto, che non si deve, mi auguro che nessuno lo faccia più per presunzione o per sfrontatezza, giudicare un ragazzo per la maglietta sdrucita, per il pantalone bucato, per le scarpe rotte, per le treccioline che ha in testa o per i piercing che ha sul viso. Perché sotto quelle magliette sdrucite, sotto quelle treccioline, ho capito anch'io, ancora di più di quanto non mi abbia fatto capire Carlo, che ci sono dei cuori pieni, delle teste che pensano, della voglia di fare, questa insaziabile sete di giustizia. Ecco, io ho imparato in questi giorni queste cose e spero davvero che si riesca a ripercorrere tutti insieme un cammino. Riflettevo in questi giorni terribili, ne ho parlato con le vecchie appartenenze, ma anche con i giovani, che in fin dei conti le cose che abbiamo di fronte, le cose che vediamo, le cose che vogliamo, sono le stesse. Vogliamo un mondo migliore, persino meno schifoso, se guardiamo le cose più rivoltanti che questo mondo ci offre. E però, certo, i giovani lo vedranno domani e noi che veniamo dalle vecchie storie, dalle antiche militanze, diciamo che ci vuole tempo, che ci vuole pazienza, che ci vuole prudenza. Allora io provavo a riflettere su questo, che forse i giovani devono allungare un po' il loro percorso. Domani mattina forse non ce la fa nessuno, bisogna che il tempo guardi un po' più avanti. Ma noi, quelli vecchi e stanchi come me, dobbiamo accorciarli quei tempi. Non ci può essere una differenza fra domani e fra 100 anni. Mettiamoci un po' d'accordo, diciamo fra 10 anni, bene. Però da domani mattina cominciamo, perché fra 10 anni ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Ecco, questo può essere, credo, il messaggio più forte che ci viene da questa forza che mi dà quel figlio piccolo e tanto grande. Cerchiamo di tenerlo sempre con noi, lui è qui con noi, di onorarne la memoria, rifiutiamo la violenza, uniamoci, non c'è nessuna diversità che possa impedirci di stare assieme per raggiungere un obiettivo giusto. Un suo caro amico lo ricordava, una delle lettere più commoventi che abbiamo ricevuto è quella di un frate cappuccino. Ora voi sapete, Carlo ha vissuto come la sua famiglia nella ferma convinzione della laicità e credo che poche cose siano così diverse tra una visione laica della vita e la fede cristiana di un frate cappuccino. Quella diversità così grande non ha impedito che fra Carlo e quel frate ci fosse una tenera amicizia, ci fosse la condivisione di speranze, di obiettivi, a volte deluse, ma ogni delusione riproponeva quelle speranze. E allora se una diversità così grande non permette la divisione, perché dobbiamo consentirla fra noi? Cerchiamo, in nome di Carlo, di realizzare ancora più forte unità. Rifiutiamo le cose brutte, le cose violente. Guardiamo le cose che voleva lui. E le cose che voleva lui erano le cose concrete. Voi sapete che per volontà sua, perché era così, voi l'avete conosciuto. Abbiamo detto neanche un fiore. Chi vuole, invece di una rosa, versare 1.000 lire su quel conto, ne faremo delle cose concrete che lui voleva fare, le adozioni a distanza, le borse di studio per gli studenti dei paesi poveri che non possono studiare, Mandela e la sua lotta generosa contro l'AIDS, le associazioni non governative che si battono tutti i giorni. E non dovremo prendere le cose che riusciremo a fare con quel fondo come un simbolo per essere un po' più rilassati alla sera ed essere contenti ed esserci liberati la coscienza, ma come uno stimolo per poi tutti insieme, giorno per giorno, riuscire a costruirle perché non ci sia più bisogno neppure della carità, perché quelli sono diritti che la gente deve conquistare e che noi dobbiamo aiutarli a conquistare. Questo è quello che mi ha insegnato Carlo e credo che lo abbia insegnato a tutti noi. Ciao Carlo, un abbraccio. Ciao Carlo.